que je suis fanatisé. Un peu de calme et m'a bénéficié. Sur la testa, on va croire que la testa. Questo so, ce lo so, questo scuro sembra più duro, ma sono sicuro, la strada nuova rompe le uova, ma quella gente è sofferente, ma non fisicamente, ma di pigrizia della mente. Senza le carte, lì dove andremo è un mondo a parte, il programmino di Gigi D'Agostino, ma chiudi gli occhi e sento il gradino. Accendi solo il tuo sensore, chiudi gli occhi e per due ore. Lamponi e more. E i colori di un bel fiore. Se qualcuno non sa più amare, forse ha paura delle zanzare. Tu piuttosto guarda l'arrosto, non lo mollare, lo fai bruciare. E non cercare qualcuno da incolpare. Alza la testa, comincia a camminare. I don't know why I'm scared of all the things I feel when I'm alone. I wonder why I wanna hide my fears. Caro amico, il tempo vola e la vita è una sola. Mi diverte stare a guardare come ogni uomo sa abituare la sua testa, le sue gesta, a stare chiuse dentro una cesta. D'Agostino. E chissà che sarà. Comunque adesso ho un po' paura, ora che questa avventura sta diventando una storia vera. Spero tanto tu sia sincera. Comunque adesso ho un po' paura, ora che questa avventura sta diventando una storia vera. Storia vera, spero tanto sia sincero. Sia sincera, comunque adesso ho un po' paura, ora che questa avventura sta diventando una storia vera, spero che tu sia sincera. Sincera, comunque adesso ho un po' paura, ora che questa avventura sta diventando una storia vera, spero tanto tu sia sincera. I feel so good again. 3, prova. Prova. Sì. Sì. Generi musicali, no dolori lombari, no errori giudiziari, no sentenze criminali,

senza parole. Questa è la ricreazione della popolazione, del programmino, del grande viaggio per chi ha coraggio. Ogni sabato e domenica dalle 14 alle 16, ascoltaci e credici. Vi ricordo il numero della messaggeria, è 333-6467-662 per scrivere le vostre immaginazioni assolutamente in rima. E il numero della posta elettronica invece è gigi@supergigi.com. Mandate, immaginate, create. Verso il cielo. Watch your step, you must be on your guard and take it slow, and promise me be careful what you do. I know you're strong, I know you'll make it on your own without my help, but please be sure you won't be by yourself. Every time I hear nuotare, ma sento già quel profumino del mare. Canto del mare. Quei profumi del mare, quei sapori. Canto del mare. Quegli odori. Canto del mare. La pelle appiccicaticcia. La sabbia che si attacca tutto addosso. Dora con dera otto, dora con dera otto, dodo con dera otto, dora con dera. Attività che si ritiene immune dalla pubblicità, prima o poi si ritrova immune da ogni attività. Taratata. Pubblicità. Taratata. Pubblicità. Taratata. Pubblicità. Taratata. Il programmino di Gigi D'Agostino. E chi sarà? Chi sarà? Piedino. formando il triangolo del piede. E il programmino non si siede. Il programmino è un grande viaggio. Isto sì che è un grande viaggio. Il programmino non è un programma programmato. Il programmino non è programmabile. Il programmino non cerca seguaci, cerca amanti. Cose pesanti, penetranti. Quasi come se non si capisse nulla. Quasi come se fosse tutto confuso. Poco diffuso. Ma poi, improvvisamente, è tutto chiaro nella mente. Ricordarvi gli appuntamenti del grande viaggio in discoteca. Ne leggerò solo qualcuno perché ce ne sono un po'. Il grande raduno Nord Italia di questa sera alla discoteca Web a Verbania, via Tiri a Segno. Allora, discoteca Web, via Tiri. È strana la via. Via Tiri a Segno a Verbania, località Trobaso. Grande raduno Nord Italia, discoteca Web questa notte. Cominciamo prestissimo e andiamo avanti. Oltre. Il sabato 6 dicembre, discoteca Roncaccio, Bizzarrone, provincia di Como. E sabato 20 dicembre, discoteca 24.000 baci a Latina, grande raduno Centro Italia. E poi il grande appuntamento di Capodanno a Rimini, discoteca Altro Mondo, ma ne parleremo anche più avanti. Maggiori informazioni potete andare sul sito www.gigidagostino.com. Il programmino in discoteca è fuori dallo schema e dallo standard, contro lo standard, antimusicale, standardizzare. Tanti cambiamenti. Tutto ti appare chiaro. E tu ne eri ignaro. Un distante. È tutto meno pesante. Tutto può cambiare. Basta lasciarsi andare. Musica. Sentito le altre puntate, prima parlavo del il triangolo del piede. Il triangolo del piede è quello che noi formiamo battendo il tempo con il piedino, no? Quando sentiamo un ritmo e il nostro piede inizia a battere sul pavimento, alzando il piede e battendo, è difficile da spiegare, però si forma, cioè battendo il piedino si forma un triangolino, un piccolo triangolo rettangolo a tempo, a intermittenza, con la musica. Beh, se vi siete stancati, adesso riposatevi un po'. Good night, baby, good night. When tomorrow comes, I'm reborn, looking in your eyes. Baby, good night. Sleeping tight and long, you'll wake up feeling warm. Good night, baby, good night. When tomorrow comes, I'm reborn, looking in your eyes. Il triangolo del piede non si siede, ricomincia. Lui ci vede. Lui ci vede. Testa appoggiata sul cuscino, ancora qualche pensierino, con gli occhi chiusi, qualche pensiero, e poi... Good night, baby, good night. When tomorrow comes, I'm reborn, looking in your eyes. Baby, good night, sleeping tight and long, you'll wake up feeling. Good night, baby, good night. When tomorrow comes, I'm reborn, looking in your eyes. Baby, good night, sleeping tight and long, you'll wake up feeling warm. Oh, Buon risveglio, programmino. Radio Italia Network, una radio con strane essenze su queste frequenze. Particolari potenze. Strane essenze. E questa notte porteremo la discoteca web a Verbania, grande raduno nord Italia. Località Trobaso, Verbania. Guardate un po' lassù. Messaggeria, se volete scrivere le vostre immaginazioni, i vostri pensieri in rima, 333 64 67 662, 333 64 67 662, oppure posta elettronica gigi@supergigi.com. RIN Radio Italia Network, il programmino di Gigi D'Agostino, un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l'orologio per risparmiare il tempo. Taradatata. Taradatata. RIN Radio Italia Network, il programmino di Gigi D'Agostino. Camminando nel cielo, io vedo la luce. Solo parlare. Tossisco se mi ascolto questo disco. Ah.

Arrivederci.